dimmi tu se ser qui adesso è acqua che scorre via. Mi fido di te, dimmi tu se la tela è rimasta bianca senza alcun colore, se il pittore dorme ormai per sempre, se cantiamo canzoni senza parole. Dimmi tu se vale la pena restare ancora qui e dar parole a questa canzone, perché non sia solo immaginazione.